Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non c'è mai da annoiarsi in Italia con le notizie italiane. Naturalmente qui sapete che Effetto Notte si parla di tutte le notizie, ma in particolare quelle italiane, diciamo che ci danno sempre un che, un quid di cui occuparci. Per esempio, per quanto riguarda oggi, iniziamo la settimana in questo modo. E, da una parte questa fantasia inesauribile del fisco italiano, adesso c'è una nuova, ancora una nuova tassa, solo con un nuovo nome sulla casa, quindi ogni giorno dal cilindro ne tirano di nuovo. Chissà quando si stuferanno, chissà quando ci stuferemo noi. Poi dopo vi lancio una provocazione. E poi ci sono le altre due appelli minacce, come possiamo chiamarle. Da una parte dal centrodestra Berlusconi, che dice rispettatemi o ve ne pentirete con i vostri figli, dice al PD, al Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte c'è Renzi, per quanto riguarda invece il centrosinistra, quindi il PD, che dice sinora ho fatto il bravo, adesso la pazienza è finita. Quindi iniziamo così, con creatività fiscale e due specie di appelli minacce. Quindi lo sapete, tutte le sere fino alle 22 vi racconto la giornata, poi ci saranno diversi ospiti, anche la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. Adesso però non vi anticipo troppe cose, iniziamo dai titoli dei fatti principali. Dicevo, il fisco e la casa si cambia ancora, la nuova tassa si chiama IUC, imposta unica comunale, e domani c'è il voto di fiducia sulla legge di stabilità. Berlusconi, ultimo appello dell'ex presidente del Consiglio ai senatori del PD e del Movimento 5 Stelle, riflettete, dice, prima di cacciarmi dal Senato. Arriva in Vaticano con un'ora di ritardo il presidente Putin nella sua visita in Italia e il Papa gli dice che bisogna assolutamente cercare di fermare il conflitto in Siria. Oggi, ricordate, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il governo annuncia guerra totale al femminicidio. Calcio, questa sera la Roma è in cerca della vittoria per rimanere in testa al campionato. Iniziamo ad approfondire le varie notizie che vi ho anticipato e molte altre. Partiamo quindi dalla fiscalità creativa, no? Si potrebbe dire, dato che il nome della tassa, come vi dicevo, la tassa sulla casa, cambia ancora. Il nuovo tributo, che sostituirà l'IMU dal 2014, si chiamerà IUC, imposta unica comunale, sarà sempre divisa nelle due componenti, la prima relativa alla raccolta dei rifiuti, la seconda sui servizi indivisibili. Tempi strettissimi per l'iter parlamentare della manovra Palazzo Madama, un calendario, quello della legge di stabilità, compromesso dall'imminente voto di mercoledì sulla decadenza di Berlusconi. L'obiettivo del governo è allora quello di chiudere la partita del provvedimento economico entro domani sera, di cui l'annuncio del ministro Franceschini. Sulla legge di stabilità sarà posta la fiducia. Il provvedimento in queste ore è ancora in commissione bilancio, ma domani alle 9.30 approderà in aula al Senato. Slitta a questo punto il Consiglio dei Ministri, chiamato a varare il decreto per lo stop della seconda rata dell'IMU sulle prime case. La fiducia, ha spiegato Franceschini, è necessaria anche per verificare politicamente, con chiarezza e senza ambiguità, il rapporto fiduciario tra governo e maggioranza parlamentare. Quanto ai contenuti del provvedimento, è arrivato l'emendamento dei relatori, la nuova service tax che sostituisce l'IMU non si chiamerà TRISE ma IUC, imposta unica comunale, saranno esentate le prime case, le detrazioni partiranno da 200 euro, interessi zero poi per rottamare le vecchie cartelle di Equitalia. Il capitolo spiagge, in arrivo novità sulle concessioni, più fondi infine per i familiari delle vittime sul lavoro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso la politica in senso stretto. Silvio Berlusconi ha annunciato oggi nuovi documenti e testimoni per chiedere la revisione del processo Mediaset e fa un ultimo appello ai senatori del PD e a quelli del Movimento 5 Stelle. 12 testimonianze, di cui 7 nuove, sono queste le carte americane sulla base delle quali Silvio Berlusconi chiederà la revisione del processo sui diritti TV Mediaset, per il quale è stato condannato in via definitiva a 4 anni per frode fiscale. Secondo il leader di Forza Italia si tratta di documenti che dimostreranno la sua innocenza. Il Cavaliere ha anche annunciato di aver scritto una lettera ai senatori del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, con la quale chiede loro di riflettere e di rinviare il voto sulla sua decadenza in programma mercoledì per studiare queste nuove carte. Non assumetevi una responsabilità che graverebbe per sempre sulla vostra storia personale, sulle vostre coscienze. Una responsabilità di cui nel futuro dovreste vergognarvi, di fronte ai vostri figli, ai vostri elettori, di fronte a tutti gli italiani. Berlusconi ha rivolto anche un nuovo attacco alla magistratura, ha negato poi di aver mai trattato con il Colle per un suo salvacondotto ed ha escluso una sua uscita dalla vita politica. Dopo quello che è successo con la creazione di un altro gruppo, il nuovo centrodestra, credo che invece sia assolutamente indispensabile che io rimanga per avviare Forza Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è la replica subito del Movimento 5 Stelle. Non rispondiamo alle provocazioni di Silvio Berlusconi. La sentenza è definitiva e ci apprestiamo ad applicare la legge. Andiamo oltre. Questa appunto la secca replica della capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Paola Taverna, e di tutto il gruppo di 5 Stelle all'appello di Berlusconi. A causa del voto sulla decadenza del Cavaliere da senatore, è stato fissato a domani il voto sulla fiducia alla legge di stabilità. Il governo, il voto di fiducia pronta, punta a chiudere questa notte l'esame della commissione e a porre la questione di fiducia domani mattina e a votarla quindi entro domani sera, la fiducia sulla legge di stabilità. A causa di questo ingorgo, il Consiglio dei Ministri ha annunciato per domani invece sullo stop questo della seconda rata IMU, slitterà giovedì, quindi continua a slittare, oltre a cambiare nome l'IMU continua anche a slittare la decisione sullo stop alla seconda rata. Il presidente russo Vladimir Putin, dicevamo prima, che ha iniziato oggi la sua visita in Italia, che si chiuderà domani a Trieste per il forum italo-russo. La visita del presidente russo è iniziata dal Vaticano, dove è arrivato con un'ora di ritardo e dove ha incontrato Papa Francesco per 35 minuti. E oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il capo dello Stato Napolitano nomina Cavaliere della Repubblica uno dei più recenti simboli della violenza sulle donne. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Giorgio Napolitano ha conferito l'onorificenza di cavaliere a Lucia Annibali, l'avvocatessa di Pesaro sfregiata con l'acido da due sicari assoldati dal suo ex fidanzato. Anche il governo si mobilita e con una conferenza stampa prende posizione schierando l'Italia contro la violenza sulle donne con il premier Enrico Letta e il viceministro Guerra. Noi vogliamo dichiarare guerra alla violenza contro le donne. Così il viceministro Guerra. Questo tema della violenza sulle donne è un tema che è pervasivo, riguarda tanti campi del nostro vivere collettivo. La violenza è il frutto nocivo di un retaggio culturale, dice il premier. Proprio perché la violenza contro le donne è figlia di retaggi culturali, gli interventi che nella legge contro il femminicidio sono stati inseriti sono interventi molto importanti. Il problema è trovare il coraggio di denunciare. Per non lasciare sole le vittime, il governo farà la sua parte, ma è necessario un salto qualitativo. Bisogna cambiare mentalità. Passa attraverso un cambio di mentalità degli uomini. Il ministro ha anche voluto spingere sul tema della partecipazione collettiva. Per questo motivo sono stati istituiti i soggetti sentinella. Chiunque, dal farmacista al medico di fiducia, da adesso venisse a conoscenza di una situazione di allarme deve segnalarlo alle autorità competenti. Leonardo Rossi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tanto per rimanere in tema, sono gli arresti domiciliari. 4 dei 10 ragazzi accusati di aver violentato più volte una ragazzina di 14 anni. Il caso è avvenuto a Molfetta, in provincia di Bari, l'anno scorso, ma ha avuto conclusione soltanto oggi. Persone, direi, sostanzialmente normali, non si tratta né di ambienti estremamente degradati né di ambienti facoltosi, del tutto comune. Persone normali, comuni, racconta il procuratore aggiunto di Trani, Francesco Giannella, ed è dietro a questa finta normalità che si nasconde un delitto tanto atroce perché reiterato. I carnefici sono 10 ragazzi, il più vecchio ha 24 anni, 3 di loro sono minorenni. Hanno stuprato in branco una ragazzina di 14 anni, lo hanno fatto più volte. La prima violenza è avvenuta all'aperto, in un anfiteatro di Molfetta. C'è voluta un'indagine partita quasi senza denuncia, perché la ragazzina riuscisse a superare la paura. Ora sono scattati gli arresti. Ancora Francesco Giannella, procuratore aggiunto di Trani. I giovani si trovano agli arresti domiciliari, non sono stati condotti in carcere perché questa è stata la decisione che ha adottato il giudice delle indagini preliminari. E certo posso dirle che anche da parte della vittima la consapevolezza della gravità di ciò che era accaduto non è stata una cosa acquisita immediatamente. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è sempre accesissimo il dibattito sul metodo Stamina, sempre al centro di polemiche e di contestazioni. Oggi a Roma un centinaio di sostenitori ha manifestato per chiedere il via libera al trattamento, ma dall'Aquila arriva un no all'applicazione di Stamina per la piccola Noemi. A rinfocolare le discussioni sulla sperimentazione medica a base di cellule staminali mesenchimali, più nota come metodo stamina, è arrivata la decisione del giudice del lavoro dell'Aquila, che ha rigettato il ricorso per l'applicazione della cura alla piccola Noemi, la bimba abruzzese di 18 mesi malata di atrofia muscolare spinale, ricoverata d'urgenza ieri pomeriggio. Invece a Roma centinaia di sostenitori del metodo stamina hanno bloccato il traffico nelle strade del centro e hanno poi cercato di entrare a Montecitorio per chiedere al governo un decreto legge che autorizzi il trattamento messo a punto da Davide Vannoni e dalla sua Stamina Foundation. Due malati in attesa di cure, i fratelli Biviano, hanno macchiato con il loro sangue le foto di Giorgio Napolitano, Enrico Letta e del ministro della salute Beatrice Lorenzin. Quest'ultima ha bloccato la sperimentazione del metodo stamina dopo la bocciatura del comitato di esperti. In serata la Lorenzin ha invitato Vannoni a rendere pubblico il suo metodo per un atto di chiarezza, ha detto. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi avevo anticipato, di questo parleremo più tardi con la scienziata senatrice a vita Elena Cattaneo, ma parliamo anche dell'alluvione in Sardegna. Oliena, Dorgali e Torpè sono ancora senza acqua, mentre negli altri 12 comuni in cui erano stati registrati danni con il blocco dell'erogazione la situazione è tornata in Sardegna alla normalità. Intanto, mentre oggi ad Olbia sono state riaperte le scuole, continuano le ricerche dell'allevatore disperso oramai da lunedì scorso nelle campagne tra Bitti e Onani, provincia di Nuoro. Siamo all'estero. Dopo l'annuncio dell'accordo sul nucleare tra Iran e le grandi potenze del 5+1, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha fissato al 22 gennaio 2014 la conferenza internazionale sulla Siria prevista a Ginevra. Torniamo con la cronaca in Italia. A Milano, vigili urbani, polizia, carabinieri hanno sgomberato questa mattina due grandi campi rom sorti abusivamente in ex stabilimenti industriali alla periferia nord-ovest di Milano. In mezzo ai topi, a montagne di spazzatura, vivevano oltre 600 persone, di cui, pensate, circa 300, la metà minorenni, la maggior parte dei quali di origine rumena, oltre una cinquantina di immigrati nordafricani. 254 persone hanno accettato l'ospitalità nei centri di emergenza sociale di Milano. Per chiudere c'è il calcio, col posticipo della Serie A, Roma-Cagliari. Dario Ricci, come è iniziata la partita? Buonasera Roberta, parlavi di Sardegna e anche all'Olimpico si sono visti e si vedono ancora sugli spalti striscioni pro Sardegna ad incitare questa regione a risorgere dall'alluvione. Per quanto riguarda il gioco, siamo intorno al 30° del primo tempo, 29° in questo istante, risultato ancora sullo 0-0, poco da segnalare se non una conclusione alta al 13° dal limite dell'area di Florenzi per la Roma, una Roma che gioca con il lutto a braccio per la scomparsa proprio ieri di Amedeo Amadei, la grande leggenda, il grande centravanti della Roma dello scudetto del 42-43. E intanto adesso un bel tiro da fuori di Strootman, fuori appunto di pochissimo, ancora, anzi Pjanic, cioè conclusione, 30° di gioco, ancora 0-0 tra Roma e Cagliari. Grazie Dario Ricci, poi ci aggiornerà man mano. Invece adesso, prima di aggiornare chi sta viaggiando, vi ricordo che potete fare i vostri commenti liberamente su, per esempio, come giudicate questi ultimi interventi di Berlusconi sulla questione della grazia e oggi su questo appello a PD Movimento 5 Stelle. Potete fare i vostri, e anche su Limo potete commentare, ho lanciato anche una provocazione se volete su Twitter, Roby scritto con la Y-Giordano, Roby-Giordano, oppure sulla pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano per riconoscerlo. E poi c'è anche il numero per i messaggi 349-238-6666, anche sull'IMU per esempio, perché non decidiamo tutti di pagarla definitivamente questa IMU, così non le cambiano più nome, non ci tengono più in ostaggio e si occupano anche di altro? Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme. Allora vi ricordo appunto per i vostri commenti la pagina Facebook di Effetto Note oppure i messaggi 349-238-6666. Ma prima di passare al primo ospite vi ricordo ancora i titoli principali di oggi. Il fisco alla casa, si cambia ancora, la nuova tassa si chiama IUC, imposta unica comunale, domani c'è il voto di fiducia sulla legge di stabilità. Berlusconi col suo ultimo appello all'ex presidente del Consiglio, ai senatori del PD e del Movimento 5 Stelle, riflettete, dice, prima di cacciarmi dal Senato. Putin che arriva oggi, è arrivato oggi in Italia, è arrivato in Vaticano con un'ora di ritardo nella sua visita italiana e vi ricordo oggi la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il governo italiano annuncia guerra totale al femminicidio. E poi il calcio, l'abbiamo sentito poco fa, questa sera la Roma è in cerca della vittoria contro il Cagliari per rimanere in testa al campionato, per il momento viaggiano sullo 0-0. E direi di cominciare con la politica. Vedo già diversi vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte trattino Roberta Giordano, ve lo dico sempre perché così non vi confondete con altre pagine che hanno nomi simili. E vorrei interpellare senz'altro Michele Ainis. Ciao Michele. Eccolo. Bentornato qua a Effetto Notte, costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera e per l'Espresso, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma III, ha scritto poi numerosissimi saggi. Allora Michele, diciamo, partiamo non dal passato remoto, ma anche solo da ieri, dall'altro ieri, da quando Berlusconi ha detto, insomma, io non chiedo la grazia, non mi abbasso a questo perché io non sono colpevole, però Napolitano me la dovrebbe concedere. C'è stata invece una risposta secca da parte del Quirinale che insomma non se ne parla, che bisogna agire per via legali, che le sentenze vanno rispettate, e poi oggi è tornato con questo appello che direi di far sentire brevemente. Riflettete dunque, colleghi senatori, riflettete prima di prendere una decisione così grave. Non lasciate che nella vostra coscienza prendano il sopravvento sulla verità e sulla giustizia le convenienze politiche del momento. Non assumetevi una responsabilità che graverebbe per sempre sulla vostra storia personale, sulle vostre coscienze. Una responsabilità di cui nel futuro dovreste vergognarvi di fronte ai vostri figli, ai vostri elettori, di fronte a tutti gli italiani. Allora Michele Ainis, se vuoi commentare prima questo appello, non so se appello, avvertimento, come definirlo, poi leggiamo anche qualche messaggio sulla pagina Facebook e poi anche parliamo da un punto di vista tecnico della grazia. Ma diciamo su questa cosa che si può dire, intanto che la sede è impropria, perché colui che è sottoposto a un giudizio che riguarda la sua ineleggibilità sopravvenuta è lo scenario, la scena, il palcoscenico in cui dovrebbe perorare le proprie ragioni, e il Parlamento non è altrove. Una conferenza stampa era questa? Questa è una conferenza stampa, ecco, c'è un che però insomma io trovo di rituale. Ci ho detto sul merito di questa vicenda di cui si è parlato probabilmente anche troppo, nel senso che tutti noi abbiamo molti altri guai su Groppone, tecnicamente la grazia. Allora c'è un piano formale e c'è un piano sostanziale che è il tessuto di prassi, di precedenti, di ciò che è avvenuto in passato. Formalmente è vero, non è richiesta la richiesta, cioè si può concedere la grazia senza che uno la richieda? Sì, si può concedere senza che si richieda, e anche il Presidente della Repubblica potrebbe condonare anche le pene accessorie, quindi la stessa interdizione dei pubblici uffici. Dopodiché e anche l'incandidabilità? Quello è un effetto della condanna nel momento in cui venisse meno la condanna. Seguito verrebbe meno anche quello. Sì, però ecco, in passato c'è sempre stata una richiesta dell'interessato, di persone a lui vicine, i familiari, gli avvocati, perché la grazia dovrebbe accompagnarsi ad un principio di espiazione della pena, quindi è anche difficile concederla senza che la pena sia mai stata, abbia avuto un inizio appunto, e anche ad una, siccome le pene tendono alla rieducazione del condannato, dice la Costituzione all'articolo 27, se il condannato dimostra una, insomma, di essere pentito, recuperato, e quindi un qualche pentimento, capisco che è una parola un po' grossa, impegnativa, però, diciamo. Senti, prego, scusami. No, stavo dicendo un'ultima cosa. In realtà a me pare che il vero ostacolo in questo caso sta in una sentenza, che è la sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale, la quale ha restituito al Presidente della Repubblica la piena titolarità del potere di grazia. In passato veniva esercitato in condominio, era stato confiscato in realtà dal Ministro della Giustizia. c'era poi stato un conflitto di attribuzioni che Ciampi fece nei confronti di Castelli, la Corte, la Consulta dette ragione a Ciampi, però disse che questo potere è in qualche modo vincolato rispetto alle sue finalità e si può concedere la grazia per ragioni, per eccezionali esigenze di natura umanitaria. Ecco, qui io avrei una qualche difficoltà a ravvisarle. Quindi a me pare che il vero impedimento giuridico sulla grazia in questa circostanza non è tanto o non è solo che Berlusconi non l'abbia chiesta, che la sua diciamo pena non sia stata espiata nemmeno per un giorno, ma che non rientrerebbe nel perimetro della grazia così come la Corte Costituzionale lo ha delimitato. Senti, leggo anche qualche messaggio da Facebook. Dice Massimo: è un uomo senza dignità, frignone e patetico. Tullio: the show must go on. Berlusconi insieme a tutti gli altri stanno inscenando un'ignobile recita. L'ingovernabilità è un ottimo alibi per non fare quello che servirebbe al paese. Floriano dice: ma se pensiamo che in tanti lo voteranno, lo voterebbero, beh, questo è triste. Vela: Berlusconi, nella sua immensa presunzione che sconfina nell'ignoranza, usa termini assolutamente fuori luogo, si crede superiore alle leggi e alle persone, quindi non accetta di essere giudicato colpevole. Gianfranco dice: si è inventato la grazia d'ufficio, poi apporta prove per il suo processo, fuori processo, e diciamo un po' in ritardo, direi che ha un approccio un po' complicato con le regole. Nicola: sembra un ordine più che una richiesta. Gigi: la grazia viene chiesta quando dietro c'è un pentimento, anche se Micheliani ci spiegava un po' quali sono gli elementi in campo. Gengis dice: non fa neanche più ridere, ormai ci vuole solo il trattamento sanitario obbligatorio, quindi c'è molta ironia. Diciamo Maurizio: in galera se fosse stato un cittadino normale lo era già da un po'. Elena: forse ha bisogno di fare una bella visita dal neurogeriatra, l'età c'è anche i comportamenti. Insomma, al di là dell'ironia delle ascoltatrici e degli ascoltatori, invece sulla questione, visto che ci sei Michelianis, approfitto di te. Sì, vedo che non ha molti tifosi su Facebook. Almeno al momento, poi guardiamo invece ai messaggi, vediamo cosa dicono. Berlusca non se ne può più, dice Alessandro, poi molte invece messaggi sono sull'Imu e lasciamo fuori Michelianis almeno dall'Imu. Invece sulla questione PD, ecco, visto che ti approfitterei di tutti, che sei fine analista, vogliamo sentire invece che cosa ha detto Renzi poc'anzi, se non sbaglio. Il PD dice con forza al governo che sulle riforme elettorali e istituzionali si smette di prendere in giro i cittadini e in un tempo limitato si portano a casa i risultati. Come? Ve la dico in modo semplice, paro paro. Ma come tu vai, Renzi, a pensare? Molto semplice. Alla maggioranza assoluta della maggioranza delle larghe intese, anche perché nel frattempo si sono un po' ristrette. Qualcuno è andato via, quindi ci siamo noi. Se non si fa quello che chiediamo noi, finish. Quindi qui riceviamo, diciamo, ultimatum da una parte e dall'altra, non si capisce più niente. Che faranno? Anche Renzi ha detto anche un'altra frase: ho fatto il bravo finora, mi è stato chiesto di fare il bravo su Cancellieri, sull'Imu, su Alfano, la pazienza è finita, quindi finish. La tua osservazione, Michele, su... La mia osservazione è un po' questa. Allora, Renzi parlava di riforma elettorale e istituzionale. Riforma elettorale effettivamente grida vendetta, perché tutti dicono che andava cambiata questa legge elettorale, invece siamo alla vigilia di un cambiamento che forse verrà operato dalla Corte Costituzionale. È una situazione paradossale che mette in difficoltà la stessa Corte Costituzionale, perché qualunque cosa faccia avrà delle critiche. Sarebbe, insomma, doveva essere la politica a riscrivere questa legge elettorale, non è stata capace di farlo, quindi qui Renzi ha assolutamente ragione. Sulle riforme istituzionali il percorso si è un po' allungato e complicato, perché il governo ha deciso di derogare all'articolo 138, che prescrive le modalità attraverso le quali si riscrive la Costituzione, e questo ha richiesto, diciamo, un passaggio in più che ancora non si è consumato. Detto questo, però, le riforme saranno possibili se il governo sopravvive, se andiamo a votare tutta questa diciamo, macchina si ferma. La sopravvivenza del governo è nell'interesse del futuro leader del PD, punto di domanda. Ecco, un bel punto di domanda col quale ci ritroveremo presto, Michele Ana. Intanto c'è Beppe che scrive: tutti i terroristi brigatisti sono stati graziati. Beh, non tutti, Berlusconi terrorizza solo i comunisti. Silvio Libero, dice Beppe, questo è l'appello che lancia un ascoltatore. Va bene, Michele Ana, intanto ti ringrazio, ti auguro buona continuazione e buona serata. Ciao Michele, anche a presto. A te un saluto a tutti. Ciao. Adesso c'è la pubblicità, poi ci sono sempre i vostri commenti sulla pagina Facebook Effetto Note trattino Roberta Giordano, anche sull'IMU c'è già Lidia che scrive: ma sì, paghiamola, insomma, dov'era il messaggio di Lidia? Sono d'accordo, paghiamo l'IMU e risparmieremo. No, nel senso, la provocazione che lanciavo su Twitter, diciamo al governo che la paghiamo, basta, non ne possiamo più, lo spiazziamo, non devono più inventare i nomi, non devono più inventare scuse, si occupino di altro. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sono molte altre cose da raccontare, però adesso vi ricordo, come sempre, ogni pausa i titoli principali, dei fatti principali. Qualcuno ogni tanto mi scrive: ma perché c'è bisogno di ripetere? Ogni tanto lo spiego, perché questa è la formula, nel senso, magari non tutti, ed è gravissimo comunque, non tutti stanno tutta l'ora ad ascoltare Effetto Notte, e quindi facciamo questo servizio di ricordare quando uno potrebbe mettersi in quel momento sulle frequenze di Radio 24, diamo la possibilità di sentire quali sono stati i fatti principali della giornata. Ricominciamo. Il fisco e la casa si cambia ancora. La nuova tassa sulla casa si chiama IUC, cioè imposta unica comunale. Domani c'è il voto di fiducia sulla legge di stabilità. Berlusconi, ultimo appello dell'ex presidente del Consiglio ai senatori del PD e del Movimento 5 Stelle, dice: riflettete prima di cacciarmi dal Senato, rispettatemi o ve ne pentirete anche con i vostri figli. Oggi giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il governo annuncia guerra totale al femminicidio, e il calcio con la Roma che è in campo con il Cagliari, cerca la vittoria per rimanere in testa al campionato, ma per il momento sono 0-0. E fra le notizie di oggi in primo piano c'è stata questa nuova manifestazione di malati, di disabili gravi con le loro famiglie in piazza a Roma sotto Montecitorio per chiedere la possibilità di poter accedere al metodo Stamina. Ne avete sentito molto parlare negli ultimi tempi, un metodo questo ideato da Davide Mannoni, presidente della Stamina Foundation, è considerato il padre di questo contestato trattamento a base di cellule staminali, la cui sperimentazione, vi ricordate, era stata prima approvata, poi bocciata lo scorso ottobre dal Ministero della Salute. Su questo e poi altri argomenti io ho l'onore di sentire la senatrice a vita Elena Cattaneo, è scienziata. Buonasera. Buonasera. Buonasera senatrice. Lei adesso si fa chiamare senatrice, scienziata, ricercatrice, professoressa. Come preferisce essere chiamata a questo punto? Ma è indifferente. Differente. Possiamo stare sul contenuto. Certo. Andiamo sui contenuti. Allora, ricordo, direttrice di Unistem, che è centro di ricerca sulle cellule staminali dell'Università degli Studi di Milano, che lei stessa ha fondato nel 2006. Vogliamo dire a tutte queste persone, c'è molta confusione, c'è anche molto bisogno di speranza, quando ci si trova in situazioni molto gravi ci si aggrappa un po' a qualsiasi cosa possa dare un minimo spiraglio. Qual è la sua parola sul metodo Stamina, senatrice Cattaneo? Non posso far altro che ripetere quello che ho detto in Commissione Sanità del Senato e che ho detto pubblicamente, continuo a ripetere: non c'è nessun metodo Stamina, non c'è nessuna cellula staminale Stamina, non c'è nessuna terapia Stamina. Quindi qui siamo di fronte a un inganno scientifico certificato, c'è plagio, c'è falsificazione, quindi non c'è assolutamente niente che sia somministrabile con un razionale, con una consistenza, non c'è purtroppo assolutamente niente, quindi tutto questo è solo ed esclusivamente un inganno che gioca sul dolore, sulla sofferenza e sulla richiesta di speranza, alla quale però si risponde non somministrando un inganno, ma lavorando seriamente nei laboratori, come si fa in molti istituti di ricerca italiani, in molti ospedali italiani e nel mondo, e mettendo a disposizione le prove di avere qualcosa. Queste prove devono essere pubbliche, visibili, verificabili da altri. Non c'è niente di tutto questo e lo sappiamo da mesi, in quanto viene professato da Stamina. Senatrice Cattaneo, C'è Roberto, per esempio, che scrive, non ha mai visitato dei malati che migliorano, ma mi pare che la sua parola sia piuttosto definitiva, no? Allora, non si visitano i malati così, non si vanno a bussare nelle case per verificare, non è questa la modalità attraverso cui si accertano l'efficacia di terapia, si fanno sperimentazioni cliniche, quindi si visitano, si reclutano i malati, li si studiano per 2 anni, 1 anno prima del trattamento nell'ambito di sperimentazioni controllate, si trattano i malati e poi si valutano con degli endpoint specifici quali sono i risultati. Nel caso di Stamina è evidente che non essendoci niente, non c'era niente da sperimentare. I bambini, i malati che non accedono a Stamina, stiamo sui bambini visto che questo tocca tra l'altro la sofferenza dei più piccoli, i bambini con la atrofia muscolare spinale, quindi con questa terribile malattia che è la SMA, anche quelli non trattati da Stamina hanno le stesse fluttuazioni, hanno gli stessi percettibili miglioramenti, che sono solo miglioramenti dovuti alla grande capacità di genitori accorti e continuamente attenti alla malattia, che riescono insomma a fare dei piccoli miracoli quotidiani. Sono malattie che fluttuano nel loro decorso, quindi hanno dei momenti in cui ci sembra che ci siano dei miglioramenti, dei momenti in cui ci sono dei peggioramenti, e la dimostrazione che non, purtroppo questo metodo Stamina insomma, non è mai esistito e non dà nessun beneficio, è Stamina stesso a rimarcarlo, perché ricordiamo che quando Stamina ha consegnato questo fantasioso protocollo al Ministero della Salute, dopo aver fatto 1 anno in televisione bombardando i cittadini con l'idea che la SMA fosse migliorata, trattata, avesse dei benefici dopo iniezione di queste cellule Stamina, ricordiamo che nel momento in cui viene consegnato questo protocollo è Stamina stessa che dice: non si sperimenti il protocollo, il metodo su questa malattia, perché la malattia è così variabile che è impossibile in 18 mesi di sperimentazione clinica osservare alcun beneficio. Le chiedo soltanto una cosa, senatrice Cattaneo, come mai, probabilmente non ci sono gli elementi, i termini eccetera, però come mai non viene indagato Davide Vannoni, il fondatore appunto di questo metodo Stamina, se è un inganno come lei ha detto? Ma a me risulta dalla cronaca che ci siano indagini in corso. Mi risulta che insomma ci siano delle denunce da parte di malati, quindi è chiaramente sotto indagine. Ci sono state valutazioni su questo fantasioso metodo da parte di tutta la comunità scientifica italiana e internazionale, dall'Accademia dei Lincei al Comitato Scientifico ai premi Nobel. Insomma, è chiara la sua posizione. Non è chiaro, è limpio, non è una posizione mia, è ciò che emerge da quanto viene messo a disposizione. Ecco, giusto la tristezza e la compassione per questi malati, soprattutto relativamente ai bambini e non solo, che continuano ad aggrapparsi a questa cosa perché è l'ultima speranza. Elena Cattaneo, senatrice, io le chiedo adesso che sto per passare a un altro argomento. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. C'è qualcuno che chiede di neutralizzare delle dichiarazioni poco belle che sono state fatte in giornata e magari da qualcun altro che non citiamo, vuole dire il suo pensiero su questa cosa? In Italia sì, è passata una legge, alcune cose sono state fatte, mi sembra che molto resti da fare, no? Ma sì, c'è bisogno ovviamente applicare le leggi, prestare attenzione, e insomma sarebbe importante che anche a livello personale insomma ciascuna donna acquisisca la consapevolezza dei propri diritti, delle proprie libertà, e in fondo si affianchi a persone che l'aiutino in questo percorso. Quindi tanto da fare, però insomma un segno positivo spero appunto veramente che sia stato dato e sia l'inizio di un percorso di miglioramento, perché è necessario. Lei ha moltissimo da fare su vari fronti, su vari piani, però le chiedo, senatrice Cattaneo, se può continuare sia dal punto di vista scientifico, della salute e della ricerca, sia da questo sul piano del tutela dei diritti delle donne, della salvaguardia delle donne, di continuare naturalmente a far sentire la sua voce. Certamente. Grazie senatrice. Buonasera. Grazie, buon lavoro. E a questo argomento mi aggancio con Francesca Pidone, che saluto. Buonasera. Buonasera. Che è giudice esperta presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, criminologa e coordinatrice di Telefono Donna del Centro Antiviolenza di Pisa, che ha pubblicato questo libro che si intitola Amori Violenti, parlando proprio della sua esperienza personale in quanto giudice, appunto, e, che è una specie di manuale di autodifesa psicologica, quindi nulla di karate, di arti marziali, eccetera, ma di quanto invece possa essere importante anche essere, prima di tutto, dottoressa Bidone, consapevoli di se stessi. Se lei dice, cioè conoscere, ascoltarsi, perché partire da questo aspetto? È importantissimo, perché il confine tra amore e violenza spesso è molto labile. Spesso si confonde quello che sono indicatori di una violenza con amore. Ad esempio, il controllo è confuso con la cura, o l'isolamento con la gelosia. Spesso sentiamo dire, no, è geloso di me, quindi mi ama, si tiene a me. No, una persona che è gelosa non ama. È importante quindi riconoscere questi indicatori per non arrivare a situazioni di violenza croniche, per non arrivare poi a quelli che sono gli episodi purtroppo di femminicidi che conosciamo, no? Che la cronaca ci porta. Ogni due giorni praticamente in Italia. Tra l'altro, certo, giorni fa è stato anche presentato a Roma la prima indagine nazionale, ne abbiamo parlato anche qua, Effetto Notte, fatta da un pool di ricercatori di diversi atenei italiani con la supervisione di Istat, CNR, Università Bocconi, sui costi sociali anche della violenza sulle donne. Si è parlato di 17 miliardi all'anno, quindi quasi una mezza legge di stabilità piuttosto corposa ogni volta. Quindi se non importasse che le donne vengono falcidiate ogni poco, quindi tutto un sistema culturale che deve cambiare, almeno pensare egoisticamente ai costi sociali. Lei, fra le altre cose, dà particolare importanza a un test che ci sono all'interno di questi nove capitoli del suo libro, che ricordo. Ricordiamo, il titolo è Amori Violenti. Un esempio di questi test qual è, per capire in che situazione ci si trova? Perché tante donne, la gran parte di queste donne che sono così fagocitate da questi rapporti malati, non se ne rendono conto, no? Qual è un test per cominciare a prendere coscienza? Sì, è importante il devi stare attenta a sé, dove si fa proprio un'analisi di cosa vuol dire il controllo, che cosa vuol dire l'isolamento. E cosa vuol dire la differenza tra conflitto e violenza? Nel conflitto c'è una negoziazione, c'è uno scambio, nella violenza c'è sempre l'imposizione della volontà di uno, c'è sempre solo un unico vincitore. Non c'è un dinamismo, no? C'è una staticità delle posizioni. Questo ci permette appunto di conoscere, e conoscere è potere. La conoscenza è potere, e anche un dare un nome a quello che all'inizio ci sembra che non vada bene. C'è qualcosa all'inizio in queste relazioni che ci fa star male, che ci sciocca, che ci confonde, no? Però se conosciamo che cosa stiamo vivendo e diamo un nome a quello che stiamo vivendo, si prende poi coscienza. Poi naturalmente devono intervenire anche servizi sociali, psicologi, forze dell'ordine, insomma è una questione molto complessa anche di risorse che speriamo si tirino fuori al di là della legge che è stata fatta di recente. Francesca Pidone, dobbiamo lasciarci proprio in una frase un consiglio che dà alle donne che vivono questi rapporti o che stanno per viverli, magari non lo sanno? Tante parlare, non rimanere mai in silenzio, confrontarsi, perché è l'isolamento che è alla base poi della violenza e che rafforza le situazioni di violenza e la potenza del maltrattante. Parlare con amiche, parlare con i genitori, parlare con i vicini, senza poi vergognarsi. Con i centri antiviolenza, senza vergognarsi. Grazie perché giudice. Nella vita di una donna l'incontro con un uomo violento può accadere, ce lo dico. E molto frequentemente, purtroppo. Grazie giudice Francesca Pidone, ricordo il titolo del libro Amori Violenti, viabilità, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E adesso, restando sul tema della sicurezza e della violenza, vorrei interpellare il sociologo Maurizio Fiasco. Buonasera. Buonasera a voi. Esperto di sicurezza pubblica e formatore delle forze di polizia. Venerdì c'è stata una dichiarazione del capo della polizia, Alessandro Pansa, che ha detto una cosa un po' allarmante. Ha detto: tutti mi chiedono di aumentare il livello di sicurezza sul territorio, ma con 15.000 poliziotti in meno non possiamo offrire lo stesso grado di sicurezza di qualche anno fa. Ha detto praticamente che si è in sottorganico e quindi che il problema della sicurezza resta un grosso problema. Fiasco. Sì, se mancano degli indirizzi chiari su quali sono le priorità per assicurare la sicurezza alle nostre città e soprattutto alle persone più esposte, è chiaro il ragionamento del prefetto Pansa è ineccepibile. Il punto è che bisogna fare delle scelte e questo apriamo un po' il ragionamento su queste scelte, perché non c'è dubbio che i tagli lineari danneggiano il sistema. Ma il sistema su quali pilastri poggia? Qual è il mandato che viene consegnato al sistema di sicurezza pubblica in questa lunghissima stagione di crisi che sta facendo abbassare le difese immunitarie nella città e quindi sta esponendo di più i cittadini sia alla violenza gratuita ma anche a una violenza invisibile che mira ai beni e persino ai beni produttivi del nostro paese? Perché Fiasco, con la crisi è cambiato anche il modo di delinquere, quindi ci sono due evidenze molto chiare. Allora, nelle nostre città, se noi ci aggiriamo, camminiamo, le attraversiamo, che cosa notiamo? Notiamo un abbassamento della sovranità amministrativa, cioè del controllo amministrativo del territorio. Troviamo delle attività economiche in crisi, troviamo delle persone turbate, questo diciamo detto un po' all'ingrosso. Tutto ciò incentiva l'aggressività della delinquenza, perché la delinquenza percepisce che il livello di controllo sociale spontaneo o organizzato è più basso e questa è una prima evidenza. Poi c'è un'altra evidenza, c'è un indebolimento delle difese immunitarie del nostro tessuto economico, anche in zone importanti, produttive, pensiamo ai distretti del centro-nord o del nord-est, c'è una lunga crisi delle imprese parliamo di imprese manifatturiere e dei servizi, che le espone a pressioni di tipo usurario o le espone alle mire di una criminalità invisibile che tende ad accaparrarsene, intervenendo come proponendo di entrare nel capitale dell'impresa come soci. Insomma, noi abbiamo sia la delinquenza di strada, sia la delinquenza qualificata e finalizzata che nella grande crisi si approfittano per estendere il loro potere. Ecco, cosa si fa in questa congiuntura? Che si fa? E che si fa? Bisogna darsi un piano strategico, cioè bisogna coordinare le varie parti di una difesa sociale dalla criminalità, una parte importante è l'apparato di sicurezza pubblica, quindi dare degli indirizzi chiari alle forze di polizia, bisogna selezionare le priorità e su quelle organizzare la resistenza. Quindi, mi scusi, Maurizio Fiasco, quindi non è solo un problema di sottorganico ma anche di piano strategico che non c'è forse? Certo, perché senza questo piano strategico e senza una valutazione dei risultati dei servizi di polizia, e la questione degli organici rimane sempre un escamotage, un pendolo, cioè chi taglia e chi resiste ai tagli. Ora, sono ingiustificati dei tagli senza un disegno, né la mera richiesta di mantenere gli organici di per sé è la soluzione. Bisogna dire su quali risultati si punta, innanzitutto definire un concetto di risultato, perché sembra strano, ma per tanti comparti del privato e del pubblico noi abbiamo chiaro cosa si intende per un risultato. E nella sicurezza pubblica cos'è un risultato? Cos'è? È la soddisfazione di una domanda di rassicurazione, certo, di sicurezza, di tutela del territorio. Ma come la identifichiamo questa domanda? E come identifichiamo il grado di soddisfazione di questa domanda? Altrimenti ci avvitiamo su risposte simboliche, su risposte d'immagine, su tagli di nastro, su proclami che questo o quell'altro politico fa. Adesso non la voglio mettere da una parte o dall'altra, ma è chiaro che la tentazione delle scorciatoie simboliche è forte. E invece qui occorre una risposta tecnica, occorre una risposta strategica che parli chiaro al Paese e dica con quelle risorse che abbiamo che cosa intendiamo crisi, fare e quali sono le priorità. Cosa dobbiamo fare, esattamente. È stato chiarissimo, io la ringrazio dottor Maurizio Fiasco, purtroppo avevamo occasione di riparlarne ancora di questo argomento, sempre cruciale. Grazie dottor Fiasco. Grazie, presto, buonasera. Caro amico, ti scrivo. Ecco, aspettavo l'attacco per salutare Giuseppe Chiellino, collega del Sole 24 Ore, perché so che avete scritto voi del Sole una lettera a Letta, che forse deve ancora arrivare la risposta, e poi parliamo anche in questi due minuti e mezzo anche di questa farsa dell'Imo, sì. Che veramente non se ne può più. Io non ho più memoria di tanti nomi, pure sono anch'io una creativa, ma non sto dietro, ecco, al governo. Beh sì, in effetti, Roberta, volevo farti una specie di test. Se ti dico tu a cosa pensi? Io, sai cosa che mi viene in mente? Super Pippo. Anche a me vengono in mente i fumetti, ma mi viene in mente il verso degli ubriachi nei fumetti. Ah. Io, che la battuta non è mia, l'ho trovata su Twitter stasera. Che non è molto confortante, diciamo, come verso degli ubriachi. Però no, infatti sicuramente i nostri politici non erano ubriachi quando hanno immaginato questa sigla. Comunque IUC è l'imposta unica comunale che dovrebbe unificare l'IMU, cioè la patrimoniale sugli immobili, sulle case, la TASI, che è la tassa sui servizi, e la TARI, che è la tassa sui rifiuti. Sì, quindi... Però non è detta l'ultima parola. No, certo, non illudiamo chi ci ascolta. No, ma anche perché la fantasia non è finita. Appunto, qualche sorpresa ci sarà ancora. Ho lanciato questa provocazione su Twitter, dico brevemente, Roby Y-basso Giordano, ho detto diciamo al governo che noi la vogliamo pagare, non ne possiamo più, la paghiamo col nome che volete, ma la paghiamo subito, occupatevi di altro. Sì, oggi guarda, sulla rete ho trovato una cartina, era riferita alla città di Toronto, ma era una cartina di un incrocio della città di Toronto e un'infografica che spiegava quanto costa in quell'incrocio della città di Toronto ogni intervento, cioè quanto costa una buca, quanto costa il binario del tram, non è roba per noi. Non è roba sarebbe per molto noi. Interessante trasferirlo sulle nostre città e sulla nostra IMO. Senti, adesso in questi 30 secondi questa lettera che avete scritto ha ricevuto risposta? Sì, nei giorni scorsi noi abbiamo raccolto anche dalle categorie produttive questa proposta al governo di utilizzare tutti i risparmi che saranno ottenuti con la spending review per tagliare le tasse sul lavoro e sulle imprese e poi il 10% a ridurre il debito. Il Presidente del Consiglio ci ha risposto, è d'accordo. E domani sul Sole. Domani sul Sole. Benissimo, allora ringrazio Giuseppe Chiellino, finalmente una risposta, vedremo di che risposta si tratta. Ciao Giuseppe, a dopo. Grazie.